Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Tutto il viaggio fino ad Acton Castle, la più grande e antica delle nostre dimore ancestrali, fu compiuto con la pompa lenta e solenne che si addiceva a persone tra le più altolocate del regno. Un lacchè con la mia livrea ci precedeva per prepararci un alloggio di città in città, e così pernottammo fastosamente ad Andover, il Minster ed Exeter. E la quarta sera arrivammo in tempo per la cena davanti all'antico maniero baronale, che aveva un portale di un orrendo stile gotico che avrebbe fatto impazzire di gioia Mr. Walpole. I primi giorni di un matrimonio sono molto spesso snervanti. So di coppie che vissero insieme come colombelle per il resto della loro vita, ma che durante la luna di miele si erano quasi cavate gli occhi a beccate. Io non sfuggii alla sorte comune. Durante il nostro viaggio verso ovest, Milady Lyndon trovò modo di litigare con me. Allorché tirai fuori la pipa, avevo preso l'abitudine di fumare in Germania quando ero soldato nel reggimento di Bülow e non ero riuscito a perderla, e cominciai a fumare in carrozza. Poi sua signoria decise di adombrarsi sia a Ilminster che a Andover, perché nelle sere in cui alloggiavamo là, io volli invitare i locandieri della Campana e del Leone a far fuori una bottiglia con me. Lady Lyndon era una donna altezzosa e io non sopporto l'orgoglio, ma vi assicuro che in entrambi i casi ebbi la meglio su quel suo vizio. Il terzo giorno di viaggio già mi accendeva lei il fiammifero della pipa con le sue stesse mani e me lo porgeva con le lacrime agli occhi, e quando arrivammo alla locanda del Cigno ad Exeter l'avevo già sottomessa così a puntino che mi chiese umilmente se non desideravo invitare anche la locandiera, oltre a suo marito, a fare un salto da noi per cena. Prima di raggiungere Acton Castle, dovemmo attraversare per 10 miglia i possedimenti dei Lyndon, dove la gente era uscita fuori per guardarci, le campane suonavano a stormo, il parroco e i fittavoli si raccoglievano lungo la strada vestiti a festa, e gli scolaretti e i contadini acclamavano a gran voce sua signoria. Gettai delle monete a questi degni personaggi e mi fermai a fare un inchino al reverendo e a chiacchierare con i contadini. E se scoprì anche che le ragazze del Devonshire erano tra le più belle del regno, è forse colpa mia? Erano soprattutto osservazioni come questa a far montare in boria Lady Lyndon. Credo davvero che si sia arrabbiata di più per come ammiravo le guance rosse di Miss Betsy che per qualunque altra mia frase o gesto di tutto il viaggio. Ah, ah, ah, mia nobile signora, siete gelosa, non è vero? Pensai io e considerai, non senza profonda tristezza, con quanta leggerezza lei stessa si fosse comportata quando suo marito era ancora vivo, concludendone che le più gelose sono proprio quelle che danno più motivo di gelosia. Attorno al villaggio di Acton, l'accoglienza che c'era stata preparata offriva uno spettacolo particolarmente allegro. Avevano fatto venire una banda musicale e innalzato archi e bandiere, soprattutto davanti alle case dell'avvocato e del dottore, entrambi alle dipendenze della famiglia. C'erano molte centinaia di signori e signore ben in carne, nel grande padiglione che, insieme al muro di cinta del parco, chiude un lato di Acton Green, e da cui per 3 miglia corre, o meglio, correva, un viale di nobili olmi fino alle torri del vecchio castello. Avrei preferito che fossero state querce quando feci abbattere gli alberi nel 1779, perché mi avrebbero fruttato 3 volte tanto. Non conosco colpa più grave della trascuratezza degli antenati, che piantano nei loro terreni legname di scarso valore, quando non gli costerebbe niente far crescere delle querce. Per questo ho sempre detto che il Lyndon Testa Rotonda di Acton che piantò quegli alberi al tempo di Carlo II, mi frodò di 10.000 sterline. Nei primi giorni dopo il nostro arrivo, trascorsi il tempo piacevolmente, ricevendo le visite di nobili e benestanti che venivano a rendere omaggio all'augusta coppia di sposini, e ispezionando, come la moglie di Barbablù nella nota favola, i tesori, la mobilia e le numerose camere del castello. È una costruzione immensa e vecchissima, innalzata addirittura ai tempi di Enrico V, assediata e tartassata dai seguaci di Cromwell durante la rivoluzione, e modificata e rattoppata alla meglio secondo il suo gusto orrido e antiquato dal Lyndon Testa Rotonda. Ne ereditò la proprietà alla morte di un fratello di ottimi principi, quelli propri dei più schietti cavalieri. E purtroppo questo fratello si era rovinato con il vino, i dadi e la vita dissoluta, e poi anche un pochino con l'appoggio fornito al re. Il castello si ergeva nel mezzo di una bella tenuta di caccia, magnificamente punteggiata di cervi, e non posso nascondere che al principio era una grande soddisfazione per me sedere nel salotto rivestito di rovere, in una sera d'estate, con le finestre aperte, gli argenti e gli ori che rilucevano di 100 sfavillanti colori sulle credenze e una dozzina di allegri compagni attorno alla tavola. Guardavo fuori, sul vasto parco verdeggiante e sullo stormire dei boschi, vedevo il sole tramontare sul lago e sentivo i cervi chiamarsi a vicenda. L'esterno, al mio primo arrivo, era un bizzarro miscuglio di architetture di ogni tipo. Torri feudali, abbaini nello stile della regina Bess, rozzi muri tirati su per riparare i disastri causati dal cannone delle teste rotonde. Ma su questo non occorre che io mi dilunghi, visto che spesi una somma considerevole per rinnovare il castello da cima a fondo su un progetto di un architetto di grido, e rifeci anche la facciata secondo l'ultima moda greco-francese, in uno stile che più classico non si può. Prima c'erano fossati, ponti levatoi, muraglioni. Feci parreggiare tutto quanto, trasformandoli in eleganti terrazze e raffinati parterre secondo i piani de Monsieur Cornichon, il grande architetto parigino venuto in Inghilterra espressamente per questo. Saliti per la scalinata esterna, si entrava in un'antica sala di vaste proporzioni, rivestita di quercitrone a intaglio e ornata dei ritratti dei nostri antenati. Dalla barba quadrata di Brook Lyndon, il grande avvocato dei tempi della regina Bess, alla pettorina lasca e ai boccoli di Lady Saccharissa Lyndon, che Van Dyck dipinse quando era damigella d'onore della regina Enrichetta Maria, e giù, fino a Sir Charles Lyndon, con il nastro di cavaliere del bagno. E c'era anche la mia Lady, in un ritratto di Hudson, con il mantello di seta bianca e i diamanti di famiglia che portava quando fu presentata al vecchio re Giorgio II. Erano davvero pregevoli quei diamanti. In un primo tempo li feci rimontare per la nostra prima udienza alla corte delle loro maestà francesi a Versailles, ma alla fine li impegnai per 18.000 sterline. Dopo quel maledetto seguito di sfortune, quando Charlie Fox e io giocammo a ombra per 44 ore senza interruzione. Archi e picche, enormi teste di cervo, arnesi da caccia e vecchie armature arrugginite erano questi gli altri vecchi addobbi di quell'immenso salone, disposti attorno a un camino in cui avreste potuto far girare un tiro a 6. Questo io lo lasciai più o meno nella sua forma originaria, ma feci finalmente rimuovere tutti quei vecchi ordigni da guerra e li confinai nelle soffitte. Al loro posto misi statuette grottesche di porcellana, divani dorati venuti dalla Francia ed eleganti marmi che con i loro nasi rotti, le membra spezzate e la bruttezza complessiva provavano innegabilmente la propria antichità. Li aveva acquistati per me a Roma un mio agente. Ma il gusto dell'epoca, e forse anche la forfanteria dell'intermediario, erano tali che 30.000 sterline di quelle gemme d'arte antica andarono poi vendute per 300 guinee, quando, tempo dopo, fui costretto a procurarmi del contante, sbarazzandomi delle mie collezioni. Dai due lati di questo salone principale si diramavano lunghe fughe di stanze di rappresentanza che, quando giunsi per la prima volta nella proprietà, erano scarsamente ammobiliate, con seggioloni dalla spalliera alta e specchi veneziani bizzarri e oblunghi, ma in seguito, le resi davvero splendide, rivestendole di damaschi dorati di Lione e appendendovi le magnifiche tappezzerie che avevo vinto a Richelieu al tavolo da gioco. C'erano 36 camere da letto padronali, di cui ne tenni soltanto 3 nelle condizioni originarie. La camera stregata, la chiamavano così per via dell'omicidio compiuto là ai tempi di Giacomo II, quella con il letto in cui dormì Guglielmo dopo essere sbarcato a Torbay, e l'appartamento riservato alla regina Elisabetta. Tutto il resto venne messo a nuovo da cornichon con raffinato buon gusto e con non poco scandalo di qualche vecchia e rigida matrona di campagna. Per ornare gli appartamenti principali, infatti, avevo preso dei quadri di Boucher e Van Loo, in cui i Cupidi e le Veneri erano dipinti con tanta verità che mi ricordo di quando quella vecchia avvizzita della contessa di Framington li coprì appuntandoci sopra con degli spilli le lenzuola del suo letto. Poi mandò sua figlia, Lady Blanche, a dormire con la cameriera, piuttosto che permetterle di andare a letto in una camera tutta rivestita di specchi, esattamente come l'appartamento privato della regina a Versailles. Di molti di questi ornamenti non ero responsabile io quanto lo stesso Cornichon, che mi era stato presentato e sovraintendeva i lavori durante i miei viaggi all'estero. Avevo dato carta bianca a questo signore, ma quando cadde e si ruppe una gamba mentre ero intento a decorare un teatro nella camera che era stata la vecchia cappella del castello, la gente dei dintorni pensò che il cielo l'avesse punito. Nella sua furia di innovazioni, quel tipo non esitava davanti a nulla. Senza mio ordine, fece abbattere il vecchio bosco dei corvi, che era ritenuto sacro in tutto il distretto. A suo proposito, correva una profezia che diceva: «Quando il bosco dei corvi cadrà, anche Acton Hall cadrà». I corvi passarono al nemico e colonizzarono i boschi dei Tiptoff, che si trovavano vicino a noi, e che ci si impicchino tutti, mentre nello spazio rimasto libero Cornichon costruì un tempio di Venere e due deliziose fontane. Veneri e Cupidi erano la passione di quel furfante. In chiesa voleva smantellare la balaustra gotica e mettere dei Cupidi anche nel nostro banco, ma il vecchio dottor Huff, il pastore, venne fuori con un gran bastone di quercia e si rivolse al povero architetto in latino, senza che lui ne comprendesse una sola parola, ma riuscendo lo stesso a fargli capire che gli avrebbe fracassato le ossa se toccava soltanto con un dito l'edificio sacro. Cornichon venne poi a lamentarsi dell'abbé Uff, come lui lo chiamava. «E che abate, Granier, che abate?» aggiungeva assolutamente sconcertato. «Un abate che ha 12 figli!» Ma su questo punto io mi schierai con la chiesa e dissi a Cornichon di dar prova dei suoi talenti solamente nel castello. C'era una magnifica collezione di antichi argenti e ori, a cui ne aggiunsi molti moderni e dei più splendidi. C'era una cantina molto ben fornita, eppure bisognava rifornirla di continuo, e c'era una cucina che riformai da cima a fondo. Il mio amico Jack Wilkes mi mandò un cuoco della Mansion House per i piatti inglesi, cioè il dipartimento selvaggina e tartaruga. Avevo poi uno chef che, tra l'altro, domandò soddisfazione all'inglese per un'offesa e poi venne tutto sconfortato a protestare perché quel grosso porco voleva battersi con lui a pugni. Un paio di aiutanti venuti da Parigi e un pasticcere italiano. Ma verso tutto questo, accessori naturali della vita di un uomo raffinato, quell'odioso vecchio taccagno di un Tiptoff, mio parente e mio vicino, ostentava sentimenti di puro orrore. Andava spargendo in tutta la regione voci secondo cui mi facevo preparare le vivande da dei papisti. Campavo di ranocchie e, lui ne era certo, cucinavo bambini piccoli in fricassea. Ma nonostante questo, i piccoli possidenti del luogo mangiavano i miei pranzi molto volentieri e persino il dottor Huff doveva ammettere che la selvaggina e le tartarughe erano assolutamente ortodosse. Quei signorotti, del resto, sapevo conciliarmeli anche in un altro modo. Fino ad allora, lì, c'era stata una sola muta di cani da volpe, bestie raccolte con una sottoscrizione, e in più poche miserevoli coppie di bracchetti rognosi con cui il vecchio Tiptoff trotterellava su e giù per le sue terre. Io costruii un canile e una scuderia che mi costarono 30.000 sterline e le riempii in modo degno dei miei antenati, i re d'Irlanda. Avevo due mute di cani e durante la stagione andavo a caccia 4 volte alla settimana, seguito da 3 gentiluomini nella mia uniforme da caccia. E dopo la mia casa di Acton era aperta a chiunque si fosse unito alla partita. Questi cambiamenti e questo modo di vivere richiedevano, come si può immaginare, spese non indifferenti. Confesso che nella mia natura c'è ben poco di quel meschino spirito d'economia che certa gente pratica ed elogia. Il vecchio Tiptoff, per esempio, stava ammucchiando denaro per rimediare agli sperperi di suo padre e liberare dalle ipoteche i possedimenti. Ma di quei soldi con cui lui pagava le ipoteche, una buona parte le incassava poi il mio agente, ipotecando del mio. E poi occorre ricordare che il mio interesse a conservare la proprietà dei Lindon non poteva spingersi più in là della mia stessa vita. E poi che mi ero sempre trovato bene a trattare con gli usurai e che dovevo pagare somme considerevoli per l'assicurazione sulla vita di mia moglie. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.